Euro reportage. Bandi europei, seguite i soldi. Di Daniela Abruzzo. E allora che fai? Sono un imprenditore. Sei disoccupato? Io non direi così. E come diresti? Che sono un imprenditore. E che hai impreso ultimamente? Ho fondato una società su internet che permetteva alla gente di condividere musica senza pagare. Cioè, tipo Napster? Esattamente, tipo Napster. Che vuoi dire? Che ho fondato Napster. A un seminario dove eravamo andati insieme al team di Europrogettazione, qualcuno aveva chiesto: ma scusate, ma l'Europa, ma che cosa intende per idea distruttiva? Dall'altra parte ci è stato detto: voi immaginatevi un po' Skype, Facebook. L'idea distruttiva è una cosa di questo tipo, una cosa che ti cambia la società. Che idea? Quale idea? Che idea. Un'idea brillante, distruttiva, come Napster, Facebook, Skype o giù di lì, per usare un'espressione di Davide Marseglia, coordinatore del team Europrogettazione della società di finanza agevolata Golden Group. Sono queste le idee che l'Europa vuole finanziare attraverso i bandi europei, che in gergo tecnico vengono chiamati call for proposal, cioè vere e proprie chiamate per ottenere delle proposte, delle idee molto originali o, se si vuole, innovative e specifiche per settore. Ma quali sono le altre idee che l'Europa finanzia e come devono essere formulate? Innanzitutto, per capirci qualcosa, bisogna spiegare in linea generale che cosa intendiamo per finanziamenti europei. Bisogna immaginare che ogni direzione generale della Commissione europea, che corrisponde a un settore diverso, ha regole e programmi molto differenti. Questi macro programmi sono dei contenitori di bandi. Per riuscire a vincere un bando bisogna rispettare tre canoni generali: innovazione, volontà e sostenibilità. L'idea, come abbiamo già detto, deve essere originale da parte dell'azienda o di più aziende. Ci deve essere poi la volontà di portarla avanti a prescindere dal finanziamento. Bisogna quindi credere nell'idea e fare in modo che sia sostenibile, che possa cioè camminare sulle sue gambe quando ormai il rubinetto di contributi europei sarà terminato. Come abbiamo capito, partecipare a un bando europeo non è per niente facile. Lo racconta Costanza Fazzi, assistente di progetto per società vincitrici di bandi europei a Bruxelles. Vincere un progetto europeo, vincere un bando europeo è difficilissimo. Le ultime statistiche sugli ultimi bandi per progetti di cooperazione culturale, per esempio in Italia, l'8% dei progetti ha vinto. Quindi su 101 che hanno fatto domanda per vincere un bando europeo, solamente 9 hanno effettivamente vinto. Ricapitolando, punto primo, vincere un bando non è facile. Punto secondo, servono competenze più che specifiche. Punto terzo, ed è qui che entrano in gioco le professioni, i mestieri dell'Europrogettazione. Quali sono? L'abbiamo chiesto a Barbara Thieri, responsabile area progetti europei dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma, e ad Anna Chiara Meschi, agente commerciale di Golden Group Bologna. Progettazione sono tanti, perché vanno secondo me dal progettista to cure a magari l'esperto che segue determinati aspetti di un progetto. Faccio l'esempio dell'esperto della valutazione e del monitoraggio, cioè ogni progetto deve, nel momento dell'esecuzione delle attività, deve essere costantemente monitorato e valutato, e solitamente è affidato a un esperto perché ha degli strumenti ben specifici per fare questo. Ma poi c'è anche l'esperto che cura tutta la parte finanziaria e amministrativa, che è un'altra task importantissima per far funzionare le informazioni. Io propongo loro i servizi, gli racconto come noi lavoriamo, poi ci sono nel nostro ufficio dei tecnici che sono avvocati, sono ingegneri e figure professionali specializzate che si occupano di capire quello che serve nella progettazione del bando. Ma Ebbene, questi sono i mestieri: il progettista, il consulente, l'esperto di network europei. Ma un fenomeno degli ultimi anni diffuso in tutta Europa è quello che vede la partecipazione e la formazione rispetto ai bandi europei camminare a braccetto. Che cosa significa? Vuol dire che molte aziende decidono, dopo aver ottenuto contributi europei grazie a un'idea vincente, di sviluppare un'attività parallela, cioè, come spiega Costanza Fazzi, insegnano ad altri come vincere un bando di gara europeo. È una realtà diffusa il fatto di vincere un bando e dopodiché mettere a disposizione le proprie competenze in materia di europrogettazione attraverso, per esempio, masterclass, quelle del Sole 24 Ore, della Fondazione Fitzcarraldo, di Melting Pro. E quindi in parallelo ci sono molte società che, oltre a portare avanti i propri progetti europei, fanno anche consulenza. Dove si trovano queste aziende? Beh, in Italia, per esempio, come la Melting Pro, organizzazione culturale. Ludovica De Angelis, project manager e ricercatrice, ci spiega come fanno. Quello che noi ci proponiamo di fare è uno studio, un'analisi delle programmazioni europee che si sono susseguite nel corso degli anni e predisporre delle proposte progettuali sulla base di quelle che sono ovviamente le richieste del committente. Al contempo, nel 2014, l'esperienza dell'associazione ci ha portato anche a dar vita ad una cooperativa attraverso la quale promuoviamo attività di rafforzamento degli operatori del settore, promuovendo dei corsi di formazione volti ad esempio ad trasmettere quelle che sono le nostre competenze in europrogettazione e in gestione di progetti finanziati anche a coloro che intendano intraprendere questo tipo di percorso professionale. Ma questa attività non riguarda soltanto le aziende culturali. Anche la Golden Group di Bologna, fondata da Davide Malaguti, ha una storia simile. Io parto nel 1996 come una società di selezione e formazione del personale e successivamente, prendendo un cliente che ai punti vendita di elettronica di consumo come Marco Polo Expert, fino al momento in cui l'allora direttore amministrativo, il dottor Scott, mi chiede se possono ottenere dei contributi a fondo perduto sulla formazione. E io scopro che il Fondo Sociale Europeo destina l'80% a fondo perduto per quella che è la formazione sui dipendenti. E inizio a scrivere io in primis i primi progetti per ottenere questi contributi a fondo perduto. C'erano ancora le lire allora e quindi arrivano nel 2000 qualche cosa come 500 milioni di lire per fare questa formazione a fondo perduto sui dipendenti e sui collaboratori. Dopodiché succede che ho iniziato a costruire una struttura all'interno della mia azienda, creando delle figure professionali che all'epoca ne esistevano pochissime e creando delle figure professionali che proprio non esistevano. Davide Malaguti quindi ottiene dei finanziamenti europei per la formazione del personale e decide più tardi di mettere su una sua azienda di finanza agevolata e consulenza. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! In generale, in ogni Stato dell'Unione Europea accade lo stesso e in diversi settori. Barbara Thieri e Costanza Fazzi lo sanno bene. ENCAT, che è il network europeo di management culturale, oltre ad aver vinto per più anni consecutivi bandi europei, organizza delle giornate di formazione per formare appunto gli altri operatori culturali nel resto d'Europa. E Interface Europe, sempre basata a Bruxelles, fa accompagnamento in progettazione europea e mette a disposizione i propri esperti per aiutare tutte quelle aziende che desiderano scrivere e fare domanda per bandi europei. London International Festival, loro per esempio hanno vinto per diversi anni consecutivi bandi europei e per esempio loro credo facciano anche attività di formazione in parallelo. Quello che mi sembra di capire capire che chi vince entra in un cerchio magico per cui altre aziende è come se volessero costruire i loro progetti inglobando tutte quelle aziende che hanno già vinto precedentemente bandi europei. Puoi presentare un progetto senza aver costruito una rete di partner che varia dai 3-5 soggetti e istituzioni che hanno sede in diversi paesi europei. La torre di Babele è sempre più grande, sempre più alta e bella. Siete o non siete padroni della terra? Perché non è possibile presentare un progetto senza un network di partner europei? Perché per Bruxelles è così necessaria questa Babele di partecipanti? Uno dei vincoli è proprio quella della costruzione della partnership. Più la partnership è allargata, quindi più teste di stati diversi si parlano e quindi generano quell'integrazione, più fanno questo genere di cose, più andiamo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi dell'Unione Europea. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.